chi poteva impedirli? E allora chi è che poteva impedirli? I massimi vertici. E questi sono i due principi assolutamente nuovi. Poi che all'interno di questo ci siano delle zone d'ombra nella sentenza, vedremo le motivazioni, perché dice in qualche zona è successo, in qualche altra non abbiamo le prove che sia successo. Così mi sembra di poter dedurre dal dispositivo e poi magari dicono altre cose, ma... Dopo la sentenza lei ha deciso di creare Interforum, un'associazione internazionale di legali. Ci spieghi meglio. Anche la Procura della Repubblica ha molto apprezzato il contributo di documentazione che siamo riusciti a mettere assieme e che evidentemente quando si fa un'indagine che riguarda personaggi che saranno stati in Italia 5 volte se ci sono stati e che hanno condotto tutta la loro attività all'estero, non è tanto agevole anche per la Procura trovare all'estero la documentazione. Larga parte della documentazione sul Belgio, ad esempio, l'ha fornita l'avvocato Jan Vermont. Noi 6 o 7 anni che lavoriamo assieme, ci siamo accorti che c'era un effetto sinergico nell'attività dell'uno rispetto all'altro. Abbiamo cominciato a collaborare anche in altri processi. Io, ad esempio, ho utilizzato moltissimo alcune sentenze francesi per il discorso ThyssenKrupp. In realtà un'organizzazione di questo genere, cioè dal lato delle vittime dei disastri industriali, non c'era. Abbiamo detto, beh, proviamo a farla, questa è stata l'idea. Ha sede a Parigi, sede centrale a Parigi, poi pensiamo di fare delle sezioni nazionali. Facciamo fatica a censire l'uso diffuso dell'amianto che riguarda anche le scuole, gli ospedali e la pubblica amministrazione. Ad ammetterlo è il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini. Di processi in corso in Italia ce ne sono tanti, da Praia a Mare a Padova. La sentenza Eternit forse cambierà le cose, riaccendendo i riflettori su un altro caso emblematico, quello della Fibronit di Bari. Nicola Brescia è il presidente del Comitato Cittadini. La Fibronit è una fabbrica che produceva manufatti in cemento amianto che si trova nel cuore della città di Bari, cioè al centro di tre tra i quartieri più popolosi della città. In tutti questi anni appunto ha prodotto in maniera molto cospicua materiali in cemento amianto, ha lavorato l'amianto e ha creato nella città di Bari quella che i medici hanno definito la zona rossa, cioè una zona molto ampia nella quale si sono verificati una serie innumerevoli di casi di malattie asbesto correlate, in modo particolare il mesotelioma pleurico, che ha provocato ad oggi tra operai e cittadini residenti, quindi con inquinamento ambientale, circa 370 morti. Il caso alla Fibronit è venuto fuori grazie agli operai che già all'inizio degli anni 70, verificando l'improvvisa assenza di alcuni loro colleghi di lavoro, cominciarono a capire che c'era qualcosa che non andava, oltretutto un po' tutti accusavano problemi respiratori eccetera e quindi con delle iniziative di carattere sindacale cominciarono a tirar fuori questo problema. Il vero problema Fibronit, poi quello che ha coinvolto i cittadini, è venuto fuori quando la fabbrica ormai dismessa, un'area di 10 ettari, voleva essere utilizzata per la realizzazione di una serie di lottizzazioni e di sottopassi eccetera, dimenticando che l'area in questione è fregna ancora di amianto, perché i materiali, gli stridi eccetera, durante la lavorazione erano depositati direttamente nel sottosuolo, quindi praticamente parliamo di una discarica di amianto nel cuore della città. Nel 2005 ci fu un processo che riguardava la Fibronit, vero? Sì, che ha poi visto la sentenza d'appello nel 2009, sì. Riguardava 11 operai a cui si sono aggiunti anche 2 residenti intorno all'area e ci fu la condanna nel 2005 confermata in appello nei confronti dei responsabili della Fibronit. Quindi da questo punto di vista Bari è stato sicuramente precursore per quanto riguarda le azioni legali nei confronti dei responsabili appunto della fabbrica. Adesso come la vicenda di Casale Monferrato può influire per riaprire anche la vicenda Fibronit? La vicenda di Casale Monferrato ha confermato un dato essenziale, e cioè che la Fibronit o l'Eternit ha prodotto un disastro ambientale. Il primo processo di Bari invece riguardava la diretta connessione che esiste tra l'amianto e il mesotelioma pleurico. Le due sentenze fanno sì che oggi quindi anche Bari possa tirar fuori la questione delle vittime, così come ora accadrà a Casale Monferrato, per cui intentare eventualmente una causa, questa volta per omicidio. Questa puntata è scaricabile podcast su radio24.it, ci trovate anche su Facebook, su Twitter, su il blog. Torniamo domani alle 6.30, naturalmente su Radio 24.